24. La storia. Non mi sono mai abituata alla felicità. Così Marilyn Monroe, in un'intervista pochi mesi prima della sua scomparsa, il 5 agosto del 62. Con lei moriva un pezzo del sogno americano. Su quella morte, sulla sua vita, sugli amori, sul mito di Marilyn si è detto moltissimo. E noi allora, oggi su Mix 24, raccontiamo una parte della vita di Marilyn forse poco nota. Sono i suoi anni newyorkesi, quando conosce il fotografo Milton Green e diventa suo amico, confidente e poi socio. New York per Marilyn è il tentativo di cambiare vita, di riscatto, il desiderio di trovare un'identità oltre il personaggio che Hollywood le aveva dato e che l'ha resa così famosa. If I know just what to say. 23 maggio 1957. Marilyn torna a Hollywood. Ne era fuggita 2 anni prima, abbandonando i grandi studios cinematografici che l'avevano resa celebre in tutto il mondo. Ed invece eccola, rientrare nei ranghi. Ma al di là delle apparenze, Marilyn non è più la stessa. New York, la città di New York, l'ha completamente cambiata. Milton Green, affascinante trentenne. Quando si incontrano, lei, colpita dall'aspetto infantile del giovane, esclama: ma lei è solo un ragazzino. Quando incontra il fotografo Milton Green, Marilyn è una delle star del decennio, gira un film dopo l'altro ed è l'idolo delle platee. Ma tutto questo ora non basta più, sente che Hollywood non ha niente da darle, né da insegnarle. L'unica cosa che conta, come dice lei, è sfornare una produzione dietro l'altra. Ormai le assegnano i ruoli senza nemmeno consultarla e spesso si tratta di ruoli all'opposto di quelli che vorrebbe interpretare. Ogni volta si trova a dover recitare la parte della biondona procace mentre lei si sente pronta a ruoli di vera attrice. A kiss on the hand may be quite continental, but diamonds are a girl's best friend. 18 agosto 1953. Milton Green arriva a Los Angeles per fare un servizio fotografico per conto della rivista Look. Green è il fotografo del momento. Ha fotografato Marlene Dietrich, Lauren Bacall, Frank Sinatra e ora deve fotografare Marilyn Monroe. In lei, l'ufficio stampa della Fox vede la creatura più provocante dello schermo dai tempi di Jean Harlow. Secondo il New York Herald Tribune, Marilyn potrebbe accendere di fuoco la notte. Che ne dici, Rupert, se ordinassimo del tè in camera? Io vorrei tè al limone. Tu cosa prendi? But square cut or pear shape, these rocks don't lose their shape. Diamonds are a girl's best friend. Ma ad attirare l'attenzione di Milton, cosa strana, non sono le curve di Marilyn. Ad attirare la sua attenzione è la sua voce. Ascoltiamolo. Avevo già lavorato con molte modelle e molte attrici e credevo che niente avrebbe mai potuto colpirmi. Ma non avevo mai incontrato nessuno che avesse un tale tono di voce. Fantastico! Marilyn guarda le foto che Green le ha fatto e dice: lei mi ha reso interessante. Che tipo di frutta ti piace mangiare? Milton Green può lasciare Los Angeles soddisfatto, è riuscito a fare colpo sulla sua modella. Marilyn, per parte sua, è ossessionata dalla paura di non essere all'altezza delle situazioni. Niente riesce a rassicurarla, né gli elogi, né i complimenti, né tantomeno le parole dei registi con cui lavora. Harry Hathaway e Billy Wilder, per lei non c'è speranza, tutti ammireranno soltanto le sue forme e le sue curve. Perché la gente è così ossessionata dalla questione del sesso? A me sembra meno interessante di una lucidata di scarpe. E ora, per la prima volta, Milton Green ha colto in lei qualcosa della cui esistenza nessun uomo fino a quel momento si era accorto. Vorrei essere felice, ma chi lo è? Chi è felice? Come get it. Le foto scattate da Green rivelano a se stessa come lei vorrebbe essere vista da tutti gli altri. Con una certa aria riservata, una profonda autentica serietà. Di fronte a questo giovane fotografo così attento e rispettoso, Marilyn si è sentita di colpo preziosa. Mamma, miss, call me. E quando, qualche tempo dopo, riceve il premio Look proprio per quelle foto, la sua felicità, per una volta, è sincera. Lui ha capito molto di me e io ho capito qualcosa di lui. Gennaio 54, Marilyn sposa Joe DiMaggio. Joe ha 39 anni ed è una gloria del baseball. Ritiratosi dall'agonismo dopo 3 anni di attività, passa il tempo a bere birra davanti alla televisione. Ha insistito così tanto per sposare Marilyn che alla fine lei ha ceduto. Ciononostante è un matrimonio del tutto incomprensibile. Un uomo di quel tipo. Ma come avrebbe mai potuto un uomo del genere soddisfare una donna come Marilyn? I love you. Lei gli regala una medaglia d'oro su cui ha fatto incidere una frase tratta da Il piccolo principe di Saint-Exupéry. La frase dice: si vede soltanto con il cuore, l'essenziale non può essere mai visto con gli occhi. Quando Joe la legge, le chiede: ma che diavolo vuol dire questa frase? I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. Negli Stati Uniti si dice che Marilyn riceva dai suoi ammiratori più di 20.000 lettere alla settimana. Nel febbraio 1954 va in Corea per una serie di spettacoli organizzati per le truppe americane in guerra. 60.000 soldati sono in delirio davanti a questa donna così speciale. I couldn't aspire. Si direbbe che la gente ami possederti, che voglia impossessarsi di un pezzo di te. La gente non mi vede. Vede solo i suoi pensieri più reconditi e li sublima attraverso di me, presumendo che io ne sia l'incarnazione. Nell'ottobre del 53 Marilyn incontra di nuovo Milton Green. I due trascorrono insieme un mese nei dintorni di Los Angeles. Alle prese con un nuovo servizio fotografico, è in quell'occasione che Marilyn racconta a Green il suo desiderio di lasciare la Fox e Hollywood. Milton si dice d'accordo e l'aiuterà lui a cambiare vita. Riprendiamo subito dopo la viabilità. Mix 24, la storia. The day is my enemy. È stufa del solito vecchio look alla Marilyn, il solito vecchio sorriso alla Marilyn e la solita incredibile capacità di essere sempre lì, dove gli altri si aspettano che lei sia. In questo, le foto di Green sono una rivelazione per chi le sa osservare. And the moon comes through. Bentornati su Mix 24. Estate del 54, il suo nervosismo nei confronti degli studios di Hollywood continua a montare. Marilyn non si riconosce più nel suo essere un sex symbol, peraltro clamorosamente sottopagata rispetto agli standard di Hollywood e soprattutto rispetto agli enormi profitti che i suoi film portano agli studios. L'incontro con il fotografo Milton Green significa per lei una sorta di emancipazione. Settembre 1954. Marilyn va a New York per girare gli esterni di Quando la moglie va in vacanza, diretto da Billy Wilder. Rispetta gli impegni, ma la decisione è ormai presa. È una decisione per quell'epoca rivoluzionaria e coraggiosa: lasciare Hollywood. Marilyn vuole provare a fare qualcosa che nessun'altra diva ha osato fare: scappare all'estremità opposta del paese e ripartire da zero. Milton Green incarica un team di avvocati di verificare minuziosamente il contratto che la diva ha formato con la Fox. Secondo i legali è pieno di errori. Marilyn potrebbe denunciare la major seduta stante. L'attrice parla oramai apertamente di far guerra agli studios. Ai suoi amici spiega che non si tratta tanto di una questione di soldi, quanto di difesa dei suoi diritti umani. No, abbastanza di essere famosa per le mie forme. Tanta gente mi chiede della mia arte, del mio lavoro, ma io so soltanto che voglio essere straordinaria. You're Napoleon Brand. Sono nata sotto il segno dei gemelli, Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Due persone in una. A dire il vero, in me ce ne sono probabilmente più di due. Penso che negli esseri umani ci siano due anime, come penso che ci siano in me. La carriera di Marilyn durerà 16 anni, ma il 1954 è l'anno della svolta. 24 film prima del 54 e solo 5 dopo. Stanchezza, depressione, noia o forse solo una reazione al distacco definitivo da quell'immagine di lei che Hollywood aveva creato. Quando la celebrità sarà passata, le dirò addio consapevole della sua caducità. Se non altro, sarà stata un'esperienza. Una volta terminate le riprese di Quando la moglie va in vacanza, Marilyn torna a Los Angeles. Prima di rompere completamente con Hollywood, le restano ancora delle questioni da definire. 6 ottobre 1954. 8 mesi dopo aver sposato Joe DiMaggio, Marilyn ottiene il divorzio. Denuncia la grave angoscia e le sofferenze morali provocate in lei dalla crudeltà mentale del marito. Joe non è certo noto per le sue tenerezze né per la sua loquacità. Dirà Marilyn con la sua tipica ironia: saremmo stati una coppia straordinaria, ma ai tempi del cinema muto. Un mese più tardi Marilyn viene ricoverata in ospedale. Fin dall'adolescenza soffre di frequenti problemi allo stomaco. Aborti, tentativi di suicidio, depressione. Poi finalmente il 23 dicembre del 54, resa irriconoscibile da una parrucca nera e da un paio di occhiali scuri, Marilyn vola a New York. Per viaggiare in incognito usa un falso nome, Zelda Zonk. 7 gennaio 1955. Marilyn e Milton creano ufficialmente la Marilyn Monroe Production. L'avvenimento viene festeggiato con 80 invitati selezionati con cura. Start spreading the news. I'm leaving today. I produttori di Hollywood sono presi alla sprovvista. Accettano tutte le loro proposte, concordano di coprodurre tutti i progetti della nuova società di cui Marilyn, con il suo 51%, è il presidente. L'attrice, oramai newyorkese, è alla testa di una società di sua proprietà. A tutti Marilyn ripete: mi considero un'artista in continua evoluzione e chiedo scusa se ho questa intenzione di diventare una meravigliosa, passatemi la parola, attrice di composizione. Il mio desiderio più grande è quello di diventare una brava attrice. Una vera attrice. Una vera attrice. Intanto i manifesti con la gigantografia di Marilyn tappezzano tutti i muri di New York. È la scena più celebre della sua carriera, quella del film che ha appena finito di girare, Quando la moglie è in vacanza. I think he just craved a little affection, you know, a sense of being loved and needed and wanted. That's a very interesting point of view. Oh, do you feel the breeze from the subway? Isn't it delicious? Sort of cools the ankles, doesn't it? Alcuni passanti, intervistati davanti al mega poster che ritrae Marilyn con la gonna sollevata, rispondono: è stupenda. È piuttosto volgare, secondo me. Molto carina questa ragazza. È meravigliosa, meravigliosa. Che strano, tutti mi conoscono mentre io non conosco nessuno di loro. La trovo molto bella, carina. Io il caldo non lo resisto. È la prima estate che passo a New York e mi sta ammazzando. Lo sai cosa ho fatto ieri? Ho provato a dormire in vasca da bagno, supina, con l'acqua fredda che mi arrivava fino al collo. Non è mica una cattiva idea. Ma ci si è messo di mezzo il rubinetto, sgocciolava, non mi faceva dormire. E allora sa cosa ho fatto? Ho ficcato l'alluce nel buco del rubinetto. L'intelligenza trionfa sempre sulla materia. Il male è che il dito mi è rimasto incastrato e non riuscivo più a sfilarlo. Davvero? Sì, ma grazie al cielo c'è un telefono nel bagno e ho potuto chiamare l'idraulico. Ha chiamato l'idraulico? Sì, Sì, è stato di un carino. Con tutto che era festa, quando gli ho spiegato la situazione, come si è precipitato. E si è risolto tutto in bene? Oh, certo. Ma è stato così imbarazzante. Sì, questo posso immaginarlo. Una vergogna da morire. Trovarmi lì con un idraulico del tutto estraneo, con le unghie dei piedi senza smalto. Che vergogna. Per me, il modo migliore per affermarmi come persona è quello di affermarmi come attrice. Marzo 1955. L'inverno è passato. Marilyn scopre la primavera newyorkese che suscita in lei uno stupore quasi infantile. Con i Green Marilyn ha scoperto una vita totalmente diversa da quella che conduceva a Hollywood, una vita strutturata in una casa organizzata. Pur disponendo ancora di una stanza tutta sua dai Green, decide di prendere un appartamento in un palazzo di New York. Neanche a New York, neanche nei momenti felici, i ricordi della piccola Norma Jean, il suo vero nome, e dell'orfanotrofio dove sua madre l'ha abbandonata quando era ancora bimba, l'abbandonano. Dice spesso: non è Marilyn che si crogiola in questi ricordi, ma Norma Jean. E io voglio che anche Norma Jean partecipi alla festa. Ogni volta che le viene rivolta anche la più piccola critica, quando le viene rimproverato ad esempio di darsi troppe arie o di cercare sempre l'entrata da prima donna, lei risponde dicendo che è colpa di Norma, che è Norma a voler essere notata, non lei. È nel periodo newyorkese che Marilyn riesce a portare avanti anche un altro impegno che le sta particolarmente a cuore, la sua psicanalisi. Consigliata da Milton Green, che a New York ormai è il suo mentore, Marilyn va 5 volte la settimana dalla dottoressa Margaret Oengberg, di origine ungherese. Dalla figura imponente, Margaret Oengberg è anche la psicanalista di Milton, che segue ormai da diversi anni. Ad Amy, la moglie di Milton, Marilyn dirà: mi piace parlare con lei. Ma ben presto ci sarà qualcun altro nella vita di Marilyn con cui le piacerà parlare: Arthur Miller. Quello con Miller è un amore che Marilyn tiene ancora nascosto al mondo perché lui è sposato. Riprendiamo da qui dopo la pubblicità. Cuore Denari Expo, 8 profili, 2 coach, un cuoco e un nutrizionista e uno stile alimentare da cambiare. Ma non solo, c'è anche la nostra lista della spesa, ricca delle migliori offerte sul mercato e in linea con un acquisto consapevole e sostenibile, che sono poi le parole chiave di Expo. Il sedentario, l'over 50, lo stressato, la coppia con e senza figli, lo sportivo, il vegetariano, la donna in gravidanza, seguiremo 8 categorie in cui tutti potranno riconoscersi. E allora andate subito a completare il questionario che vi aspetta sul sito di Radio 24. Cuore Denari Expo, ogni mercoledì con Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani, dalle 11 alle 12.30 su Radio 24. Mix 24, la storia. Mi piace vestirmi bene quando esco la sera. Bentornati su Mix 24 con il racconto della vita di Marilyn Monroe. Sono gli anni in cui Marilyn è a New York, dove cerca una nuova identità, nuove esperienze lontane da quelle di Hollywood, che l'ha resa famosa e ha costruito il mito di Marilyn, ma di cui però ora lei è stufa. L'uomo che l'aiuta a costruire la nuova Marilyn è il fotografo Milton Green, che infatti la ritrae in pose meno sexy, che cerca in lei una profondità a molti sconosciuta, ma soprattutto in questa nuova avventura c'è la città di New York, la grande mela che sorprende e trasforma tutto. When they begin, the begin. Una novità che è un po' il simbolo della sua ritrovata indipendenza è il jazz. Marilyn ama la libertà che questo tipo di musica rappresenta. Un giorno, dopo essere venuto a sapere che Ella Fitzgerald non può cantare in un locale alla moda perché nera, telefono al proprietario del locale e se ci ripenserà, nel suo locale ogni sera avrà la bionda diva di Hollywood seduta ad un tavolo in prima fila. Così, tutte le volte che la Fitzgerald canta in quel locale, Marilyn mantiene la promessa. In più, la notte, quando Marilyn non riesce a dormire e non posa per Milton, legge libri. C'è un libro di Rainer Maria Rilke, Lettere a un giovane poeta, che mi ha molto aiutato. Senza di lui, a volte, sarei impazzita. 12 aprile del 1955, Ed Marrow, celebre anchorman della CBS, si autoinvita a casa dei Green dove Marilyn vive. Davanti alle telecamere, Marilyn appare imbarazzata nello spiegare i motivi che l'hanno spinta a lasciare Hollywood per New York. Marilyn, ora che sei una newyorkese, cosa ti piace di questa città? La amo. Sono tutti così carini e poi è una città molto stimolante che dà ottimismo. Marilyn, dimmi, perché questa società? Beh, in primo luogo, per fare dei buoni film. Non che io abbia niente in contrario a girare commedie oppure film musicali. Anzi, mi piacciono molto, ma vorrei anche recitare ruoli drammatici. I ruoli drammatici, è questo che vuole Marilyn. Quando la moglie va in vacanza, intanto l'ultimo film girato a Hollywood è nelle sale. Un importante teatro di New York ospita un evento di grande richiamo per il bel mondo del cinema. 2 giugno 1955. Ad accompagnare Marilyn all'anteprima del film è Joe DiMaggio, come se nulla fosse successo tra loro. Quella sera Marilyn compie 29 anni. Di lì a breve avrebbe avuto un aborto, l'ennesimo della serie. Tra poco Marilyn scoprirà che non potrà mai più avere figli, ma ne ha un tale desiderio che ogni 2 o 3 mesi si convince di essere incinta, ingrassando di 6 o 7 chili per convincere anche gli altri della sua condizione. Se avrò una figlia non sarà certo una Norma Jean. So come educarla, senza bugie. Nessuna bugia su Babbo Natale, nessun bisogno di raccontarle che il mondo è pieno di gente nobile e virtuosa che pensa solo ad amare il suo prossimo e a fare del bene. Sempre molto attenta al suo aspetto fisico, Marilyn nel frattempo sembra di preoccuparsi soprattutto di migliorare come attrice. Dimostrando una straordinaria modestia, ricomincia come allieva e si iscrive all'Actor Studio, diretto dal più noto e controverso dei maestri americani di arte drammatica, Lee Strasberg. Vado all'Actor Studio il martedì e il venerdì. E negli altri giorni prendo lezioni private da Lee Strasberg. Ha cambiato la mia vita più di qualsiasi altra persona che io abbia mai conosciuto. Febbraio del 56, Marilyn si appresta a girare con Laurence Olivier il film Il principe e la ballerina, tratto da una pièce teatrale di cui Milton, socio di Marilyn, ha acquistato i diritti. La Monroe Production ha puntato molto in alto, ma non ha fatto i conti con la personalità di Laurence Olivier. Oh, what is this sudden joke? Grande attore tragico, Olivier è un dio dell'Olimpo del teatro classico ed è anche un convinto oppositore del metodo Strasberg, lo stile che oramai Marilyn ha fatto suo. Il metodo Strasberg si basa su una tecnica molto simile alla psicanalisi. Incoraggia l'attore ad un'introspezione profonda. Laurence Olivier, al contrario, considera tutto ciò solo una complicazione inutile e fa di tutto per intimidire Marilyn sul set, fino ad arrivare a dirle, durante le riprese, cerca di essere sexy. Marilyn, da questa produzione, ne uscirà devastata. Così Lee Strasberg. Marilyn aveva sempre sognato di essere un'attrice. Non voleva essere una star, voleva essere un'attrice. E in qualche modo questo sogno l'ha accompagnata per tutta la vita. Ecco perché, malgrado fosse diventata una diva a livello mondiale, tra le più straordinarie e speciali di tutti i tempi, lei continuava a sentirsi insoddisfatta della sua carriera. Quando venne a New York, pensò di poter finalmente realizzare il suo sogno e diventare una vera attrice. Quando Marilyn veniva a lezione, sedeva sempre nello stesso posto. Brava e disciplinata come a scuola. Il metodo Strasberg fa riaffiorare in lei ricordi di bambina, quando si domandava chi fosse suo padre, che non aveva mai conosciuto, e la madre le mostrava la foto di un uomo con un cappello e baffetti come quelli di Clark Gable. Clark Gable, sono certa che non me ne vorrà per quello che dico, visto che in senso freudiano è una cosa molto positiva. Ma ecco, io ho sempre pensato a lui come a mio padre. In other words, baby, kiss me. Da quel giorno, quando gli amici le chiedono di suo padre, lei risponderà: Clark Gable. E alla fine è lei la prima a crederci. Ho sempre avuto la sensazione di essere una nullità. E ho sempre pensato che per essere qualcuno avrei dovuto diventare qualcun altro. Forse è per questo che ho sempre desiderato fare l'attrice. Volendo utilizzare la sua notorietà per aiutare l'Acto Studio, Marilyn partecipa a una serata organizzata in onore della scuola di Strasberg. Una serata a cui partecipano moltissimi attori. Personalmente, ho la netta impressione che stiamo riuscendo a percepire. Tra loro Marlon Brando, che ha appena girato un tram che si chiama Desiderio. I due, dopo una breve relazione, resteranno cari amici. A fine romance, my good fellow. 25 febbraio del 56, Marilyn arriva a Los Angeles per girare Fermata d'autobus. E l'altro progetto scelto insieme a Milton Green. È la prima volta dopo un anno che torna a Hollywood. Strasberg la fa accompagnare da sua moglie Paula, incaricata di indirizzare l'attrice durante le riprese. I giornalisti che intervistano Marilyn sono curiosi della sua trasformazione. Marilyn è felice di tornare a Hollywood per girare Fermata d'autobus? Oh sì, sono molto contenta di recitare con Joshua Fisher. È così bello essere qui. Indossa un abito molto meno sexy di quello che indossava l'ultima volta che l'ho vista. È questa la nuova Marilyn? No, io sono sempre la stessa Marilyn, solo il vestito è diverso. La troupe parte per Sun Valley, una cittadina di provincia in California scelta per girare gli esterni del film. Nel film Marilyn e Cherie, una cantante priva di talento che sogna la fama e la gloria. Sul set aleggia molta tensione. Marilyn ha un collasso e deve sospendere le riprese per 15 giorni. Chiede la presenza della sua psicanalista, che chiamata dalla produzione attraversa il paese degli Stati Uniti per assisterla. Fermata d'autobus avrebbe dovuto essere il primo film della sua nuova vita. Questa volta infatti il suo personaggio non assomiglia a nessuno di quelli interpretati prima, proprio come lei desiderava, anche grazie al trucco che accentua l'aspetto patetico del personaggio. Marilyn finisce per dare vita a una figura femminile a tutto tondo, dalla disperata sensualità che rifiuta ciecamente l'ineluttabile fallimento della sua vita. Cambiando addirittura il tono di voce, Marilyn riesce a tirar fuori un originale accento del sud. Per molti sarà la migliore interpretazione della sua carriera di attrice. Un'interpretazione che avrebbe meritato almeno una candidatura all'Oscar, e invece Hollywood continua a ignorarla, candidando al suo posto il suo coprotagonista. Ma a Marilyn non interessa. Lei ha altro per la testa. Facendosi passare per la signora Leslie, telefona ad un certo signor Leslie nel Nevada. Ed il signor Leslie non è altro che Arthur Miller. Bisogna aspettare il suo divorzio definitivo prima di rendere pubblica la notizia della loro relazione, che oramai è un segreto di Pulcinella noto a tutti. Mi ha dato un senso di sicurezza. Mi ha trattato come un essere umano. Un essere umano con una propria sensibilità. 2 giugno 1956. Terminate le riprese di Fermata d'autobus, Marilyn rientra a New York accompagnata da Milton Green. A Hollywood ti danno $1,000 per una prestazione sessuale e 50 centesimi per l'anima, lo so per esperienza, perché ho rifiutato spesso la prima offerta e quanto alla seconda, la mia anima non è in vendita. A New York Marilyn, lo abbiamo raccontato, per esorcizzare la Marilyn sexy e seducente di Hollywood, si contorna di personaggi geniali, prima fra tutti Milton Green, poi Lee Strasberg e ancora la sua psicanalista. Adesso è la volta di Arthur Miller, il suo ultimo baluardo contro se stessa. per puro caso, ascoltando un'intervista di Miller, Marilyn viene a sapere che si sposeranno prima che lei parta per Londra per girare Il principe e la ballerina. Per i giornalisti che l'attendono all'arrivo, Marilyn improvvisa una conferenza stampa. Sì, sta per sposare Arthur Miller. Per lui si convertirà all'ebraismo ed è fiera per la sua battaglia contro il maccartismo e l'intolleranza. Marilyn non è mai stata una militante dichiarata, ma adesso non nasconde le sue idee progressiste, ma soprattutto rinnova il suo attacco contro Hollywood. Quei bastardi di Hollywood volevano che io lasciassi Arthur e dicevano che questa relazione avrebbe rovinato la mia carriera. Sono solo un branco di vigliacchi che vorrebbero farmi diventare come loro. Riprendiamo da qui dopo la viabilità. Mix 24, la storia. Bentornati su Mix 24. Il 29 giugno del 1956 Marilyn Monroe sposa Arthur Miller. Il matrimonio rappresenta un'altra tappa nella strada per emanciparsi da Hollywood, un altro tassello della sua nuova vita newyorkese. La nuova Marilyn non esita a schierarsi in difesa del suo marito, messo sotto accusa dal senatore MacArthur e dalla Commissione per le attività anti-americane. Miller ammette di aver partecipato a qualche riunione di scrittori comunisti, ma rifiuta nel modo più assoluto di fare i nomi degli altri partecipanti. È decisamente al di fuori dei poteri di questa commissione indagare. Sweet, sweet. Con grande gioia di Marilyn, Miller diventa un eroe della lotta contro la caccia alle streghe. Ma secondo la commissione, il suo futuro marito e molti dei suoi amici possono essere classificati come appartenenti all'estrema sinistra. L'FBI dunque apre un'inchiesta anche sul conto di Marilyn Monroe. One girl, one boy, some grief, some joy. 29 giugno 1956. Quando i futuri sposi incontrano la stampa convocata apposta perché constati la loro perfetta felicità, un episodio tragico si abbatte su quella che avrebbe dovuto essere una giornata di festa. L'automobile della corrispondente della rivista Paris Match esce di strada e si schianta contro un albero. Scaraventata dall'abitacolo, la giornalista praticamente muore sotto gli occhi di Marilyn, che sviene. Una conferenza stampa abbreviata ha luogo qualche istante dopo sotto un albero della proprietà di Arthur Miller a Roxbury, nel Connecticut. Marilyn sembra distratta, Arthur un po' assente. Non vi dirò dove ci sposeremo. Per una semplice ragione, perché ritengo sufficiente farvi sapere quando ci sposeremo. Signorina Monroe, un maestro di scuola ha appena ricevuto da un suo alunno di 11 anni una letterina in cui esprime tre desideri. Primo, fare soldi. Secondo, diventare ingegnere. Terzo, ha detto, quando sarò grande vorrei avere una ragazza bionda. Dovrà avere gli occhi blu e dovrà essere come Marilyn Monroe. Questa è la vita che voglio. Lei rappresenta quindi il suo terzo desiderio. Ne sono lusingata. Finita la conferenza stampa, Marilyn corre a sposarsi lontano dai giornalisti. La cerimonia dura solo 4 minuti. Dice Arthur Miller: stando con lei si ha voglia di morire. Questa donna è una sfida per ogni uomo. La sua presenza rivela e accentua la natura profonda di ognuno. Un uomo ipocrita diventa ancora più ipocrita. Un uomo confuso ancora più confuso. Un introverso ancora più introverso. Quanto a Marilyn, lei stessa conferma ciò che molti hanno già intuito. Sono sempre stata attratta da uomini più grandi di me. I giovani non hanno niente nella testa. Il matrimonio con Arthur Miller dura 3 anni e mezzo. Sarà la relazione più lunga che Marilyn abbia mai avuto con un uomo. 13 luglio del 1956, Marilyn e Arthur Miller partono in aereo per Londra per incontrare i coniugi Oliver. Marilyn ha con sé alcune scatole di calmanti da cui è dipendente. L'arrivo a Londra è trionfale. Sir Oliver e Lady Oliver attendono all'aeroporto la coppia più famosa del momento, mentre quasi 100 poliziotti devono contenere la foga di 200 giornalisti scatenati. Anche Milton, il fotografo, il suo socio, partito con qualche giorno d'anticipo, è all'aeroporto ad attenderli, ma come al solito non si mette in vista. né lui né l'attrice immaginano che le riprese che stanno per cominciare saranno una delle esperienze più dolorose di tutta la carriera di Marilyn. La psicanalista di Marilyn, chiamata d'urgenza a Londra, dirà alla sua paziente che non avrebbe mai dovuto costruire una sua società di produzione. La psicanalista newyorkese infine indirizza Marilyn direttamente a Anna Freud, la figlia del grande Sigmund. Marilyn parla così delle sue battaglie interiori. Quando un artista ricerca a tutti i costi la verità, a volte ha l'impressione di sfiorare la follia, ma è in quel momento che compie il massimo sforzo per far uscire quello che c'è di più vero in lui. Le pillole e l'alcol la fanno piombare in uno stato di amnesia quasi totale. Sotto questo aspetto, come molti altri, il matrimonio con Arthur Miller non apporta nessun cambiamento alla sua vita. Probabilmente il matrimonio cambia molto di più Miller. Prendendo gusto a questa sua nuova notorietà, Miller infatti non si fa scrupolo ad approfittare della situazione anche dal punto di vista finanziario. Nel giro di breve tempo, Miller comincia a vedere Milton Green come un rivale. Anche Milton ha le sue colpe, come Miller, come Strasberg, come tutti gli psicofarmaci che Marilyn assume in maniera smodata. Anche Miller cerca di controllarla, di gestirla, arrivando a fornire lui stesso in grande quantità le pillole di cui lei immagina aver bisogno. Sa che sta per accadere? Sto per innamorarmi di lei. È stato sempre, sempre così. Sempre? Avrebbe mai immaginato Milton che questo film avrebbe segnato la fine della sua storia con Marilyn? Che Marilyn da quel momento avrebbe avuto un atteggiamento fortemente critico nei suoi confronti e che lo avrebbe abbandonato senza dargli nessuna possibilità di riconquistare la sua amicizia? In ogni caso, saranno proprio gli avvenimenti di Londra a decretare la rottura dell'amicizia e la rovina economica di Milton. E sarà proprio a Londra che Marilyn, messa in ridicolo pubblicamente da Laurence Olivier durante le riprese, comincerà a dubitare di aver sbagliato a lasciare Hollywood. E ancora, sarà sempre a Londra che Arthur Miller, temendo i riflessi della sua vita privata sulla sua attività di scrittore, comincerà a domandarsi se non abbia sbagliato a sposare Marilyn. Dirà lei tempo dopo. Io credo che ad Arthur piacessero le bionde svampite e credo che non ne abbia mai avute prima di me. Appena tornata da Londra, Marilyn avvia lo scioglimento della Monroe Production e si sbarazza così, senza troppi complimenti, dell'uomo che l'ha aiutata a liberarsi dalla schiavitù degli studios. Incoraggiata, se non addirittura spinta dal marito Arthur Miller, che è ormai divenuto il suo nuovo mentore, l'attrice accusa Milton di non averla tenuta al corrente delle decisioni prese dalla società, di essersi attribuito cariche fittizie e aver sottratto fondi alla cassa. Marilyn ha messo la parola fine a uno dei periodi più esaltanti della sua vita. A 2 anni, nel corso dei quali era riuscita a dare le 2 migliori interpretazioni della sua carriera di attrice. L'amore è una delle cose più importanti. Are we too blind to see? Do we simply turn our heads and look the other way? Nonostante tutto, Milton rifiuterà di trarre anche il minimo profitto dalle foto dell'ultimo shooting con Marilyn. Mi ero consacrato a lei. Ma anche oggi non farei nulla che possa nuocere alla sua carriera. È finita. Marilyn torna ad Hollywood al braccio di Arthur Miller. Eppure, malgrado le apparenze, non è più la stessa. Sta tornando ancora una volta nel mondo fittizio della celluloide, ma adesso sa cosa c'era oltre lo specchio. Gli ultimi anni della sua vita corrono via in fretta, saranno i più inquieti. In quegli anni di piombo Marilyn sarà sempre più esigente, insoddisfatta e insopportabile. Parigi, agosto 1962. Un giorno, mentre sta per partire per Parigi per fotografare altre donne, Milton telefona a Marilyn. Commossa dalla chiamata, lei gli promette che si rivedranno presto. Marilyn, infatti, ha accusato suo marito Miller di averla allontanata da Milton, togliendole così la sola persona di cui si sia mai fidata. Ma Milton e Marilyn non si rivedranno mai più, e nessun'altra donna sarà mai più fotografata da Milton come lo era stata Marilyn. Dirà Milton Green. Mi chiedete cosa ho fatto? Ho semplicemente creduto in lei. Una delle più famose star della storia di Hollywood è morta all'età di 36 anni. Marilyn Monroe è stata rinvenuta morta nel suo letto. Come il resto del mondo, anche Milton apprende della sua morte dai giornali. Non date mai tutto il vostro cuore, perché tutto ciò che è bello non è che un sogno breve e delizioso. Oh no, non date mai tutto il vostro cuore. Ringrazio Rachele Bonani, Pietro Gentile, Manuel Guerrini, Antonella Migliaccio in redazione, Alessandro Chiappini e Valerio Rocchetti in regia. A domani.